Cantine di Franciacorta. Bentrovati, parliamo della cantina La Gatta a Gussago, vigna a 260 metri sul livello del mare, azienda a conduzione familiare, 130.000 bottiglie, la quasi totalità bollicine, vigneti in collina che rendono al vino caratteristiche particolari. Sentiamo Giuseppe Gatta. I nostri vigneti sono terra rossa, quindi quando si calpesta è una cosa che rimane attaccata sotto la scarpa, per intenderci, è l'argilla pura e sola. La difficoltà è solamente nel lavorare, tutto il resto sono cose positive, perché lì ci sono terreni argillosi, calcarei, quindi danno molta struttura e molta ampiezza al prodotto. Ovviamente si hanno basi diverse, magari si perdono un po' in acidità e in lunghezza, ma si guadagna molto in ampiezza, in struttura e in corposità, quindi diventa un vino magari più a tutto pasto, anziché un vino esclusivamente aperitivo. È tutto, alla prossima tappa. Vi aspettiamo al Festival Franciacorta in Cantina il 18 e il 19 settembre 2010.